Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Noi siamo pronti. Prima di andare al nostro sommario, un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e come sempre a Laura Vanossi in redazione. Possiamo andare. Si avvicina l'estate e la voglia di fare sport. Fai la scelta giusta. Post trapianto, l'attività fisica aiuta. Dolci con leggerezza e sprint. Questa sera, ma noi oggi guardiamo più lontano, alle vacanze, occasione irrinunciabile per buttarsi in nuove avventure. Per chi ha già deciso, per chi ancora non ha fatto programmi ma vuole avere consigli, incoraggiamenti, 800 24 0024, un numero verde insomma per andare sicuri ma con gradualità, come raccomanda sempre il nostro dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS, dimensione dello sport di Settimo Milanese. Stavolta ho esagerato, ho detto proprio tutta la qualifica. Bene, molto bene, grazie. Ha detto anche gradualità, ormai col marchio registrato della R un pochino, diciamo così, moscia, ma va bene. Sì, perché l'estate è un po' il tempo nel quale c'è più tempo, appunto, c'è un clima più favorevole. Tanti di noi o cominciano a fare sport o fanno nuovi sport o aumentano la quantità dello sport che già facevano. E quindi è importante capire se facciamo bene, se non facciamo bene e quali scelte sono le migliori da fare. A dare manforte al dottor Franco Confalonieri abbiamo anche il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Dottor Respizzi, buongiorno anche a lei. Buongiorno Nicoletta e ciao Francesco. Buongiorno, ciao. Ciao, ciao. Allora, dottor Confalonieri, Francesco e Franco, Francesco. Francesco per gli amici, Franco per le persone. Com'è? Francesco detto Franco per qualcuno. Va bene, allora, dottor Confalonieri, le domande di rito. Allora, oggi partirei con una domanda un po' diversa, perché si parla spesso dell'estate come il momento per fare sport e attività per i più grandi, ma tutto sommato anche per i bambini diventa sempre di più il periodo nel quale finalmente possono cominciare a muoversi, a giocare, a usare il loro corpo. Adesso si sono diffusi enormemente questi camp estivi, oratoriali, piuttosto che privati, piuttosto che comunali, che qui affidiamo i nostri figli in questo periodo, e molto spesso lo sport è il tema dominante, certo, di questi camp. Quindi abbiamo bambini che passano dal non fare nulla a fare sport poco, anche parecchie ore al giorno. Quindi la prima domanda è: i vostri bambini faranno sport quest'estate? Siete contenti? Non siete contenti? Avete qualche paura? Raccontatecelo, che proviamo ad aiutarvi. La seconda domanda invece è più relativa agli adulti: vorremmo che ci raccontassero le loro esperienze passate, cioè avete vissuto estati di grande amore con lo sport o avete vissuto estati caratterizzate da un rapporto difficile con lo sport? Raccontatecelo, perché potremmo partire dalla vostra esperienza per aiutare gli altri ascoltatori. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, di provare a identificare alcuni profili in modo che i nostri amici da casa possano in qualche modo riconoscersi. Pensiamo allo sportivo abituale. Dottor Respizzi, secondo lei, la persona che regolarmente pratica attività sportiva, dove si butterà quest'estate? Ma tendenzialmente quelli che hanno questa buona abitudine, diciamo così, che sono dipendenti dall'attività sportiva sostanzialmente, che poi si sviluppa un vero e proprio rapporto anche di psicologico, di dipendenza dall'attività, io immagino che si inventino delle vacanze in cui è possibile fare tanto movimento. Quindi sono quelli che possiamo immaginare scarpinare sulle Dolomiti piuttosto che sul sentiero GR30, GR20, che sia quello della Corsica, quelli che quindi vanno a cercare delle situazioni in cui la sollecitazione fisica è importante, perché diventa una sorta di sfida nei confronti della natura. E quindi sono persone che di solito hanno anche una visione molto ecologica della vita, della vacanza, quindi li vedo più in rifugi o in villaggi spartani, ecco, io li vedo un po' così questi. Dottor Confalonieri, a lei invece affido lo sportivo della domenica, che magari approfitterà delle vacanze per muoversi con gradualità e con una certa frequenza. Ma secondo me, siccome poi lo sportivo della domenica è spesso suggestionato dallo sport di cui si parla, quest'estate avremo naturalmente una ripresa, un rilancio di tutte quelle che sono le sfide a calcetto piuttosto che a calcio a 7, proprio perché ci sono i mondiali, quindi viene voglia di immedesimarsi, quindi viene voglia di fare calcio. Non solo, abbiamo per la prima volta nella storia una donna tennista in finale a Parigi, giornali pieni di tennis, le televisioni pieni di tennis, ecco che magari arrivando in vacanza guarderemo con più desiderio e più curiosità il campo da tennis. E un altro sport che vedo in fortissima espansione in questa fase è il golf, sempre più uno sport alla portata di tutti, sempre più uno sport di cui si parla e quindi di cui penso parleremo. Che tanti cominceranno, quindi tre sport molto diversi fra di loro ma che probabilmente saranno fra i più gettonati quest'estate perché chi comincia. Dottor Respizzi, invece, per chi ha ripreso dopo una lunga inattività, il piacere di muoversi, ha voglia di fare, di andare, ma si muove un po' coi piedi di piombo. Sì, è giusto, è il buon senso che ci guida, il nostro stesso organismo che ci dà dei consigli dall'interno. Quando si arriva da un prolungato periodo di inattività, tutte le nostre strutture, osse, muscoli, tendini, tutta la nostra, diciamo, carrozzeria, per usare un termine molto facile, è un po' arrugginita. E quindi ripartire significa ripartire con molta cautela e piano piano, per evitare che si creino delle situazioni che noi chiamiamo di sovraccarico, certo, che sono quelle situazioni che poi possono sfociare ad esempio in una tendinite, che sono dei dolori, delle situazioni dolorose, non gravi per fortuna, ma comunque fastidiose, che poi ti impediscono di fare quello che ti piace fare. Quindi a queste persone bisogna dare un consiglio di essere molto graduali e di non scatenarsi in attività che il nostro organismo non è pronto a fare. Noi dobbiamo sempre ricordarci che ogni volta che non utilizziamo una parte del nostro corpo, ad esempio i muscoli, questi muscoli si riducono di dimensioni, perdono forza e perdono la capacità quindi di dare una risposta motoria adeguata a qualunque stimolo venga dato. Quell'esempio che faceva prima con Falonieri delle partite di calcetto è un classico. Allora si vede la nazionale che gioca, chissà come andrà, sai, come ieri sera un po' dura, ma vabbè, fa niente, viene nazionale e ti viene voglia di giocare, però magari sono passati 20 anni dall'ultima volta che hai giocato, quindi e anche quello che c'hai di fronte molto probabilmente, quindi sono due mine vaganti che si possono scontrare, che si incontrano e si scontrano, quindi è pericolosissimo. Dottor Confalonieri, per chi sta cercando di dimagrire e pensa di dare un colpo definitivo ai chili troppi in vacanza dandosi per l'appunto una mossa? Ma io qui farei una brevissima premessa, cioè l'ideale sarebbe fare un po' di attività fisica in vacanza per poter mangiare con gusto anche in vacanza, perché se ci togliamo il piacere del mangiare in vacanza già, secondo me, non ci facciamo del bene in linea generale. Quindi ok l'attività fisica sia per potenziare gli effetti di una dieta sia soprattutto per poter mangiare a mente serena. Fra le varie attività direi, ovviamente questo è abbastanza scontato, tutte le attività di resistenza, camminare prima fra tutte, la bicicletta, il nuoto come alternative, ma magari anche attività più divertenti, più rilassanti come il ballo, che è facile praticare in estate soprattutto nei villaggi, soprattutto nelle strutture organizzate. 40, 45, 60 minuti di danza di vario tipo sono un ottimo esercizio fisico, utile per dimagrire e funzionale anche a quel benessere globale che rimane il nostro obiettivo di fondo. Possiamo divertirci, possiamo fare sport, mangiare e poi ci mangiamo po anche più sopra, la vacanza, voilà, diventa perfetta. 800 24 0024 se volete intervenire, e i messaggi come sempre al 349 238 6666. E il tema di oggi mi dà lo spunto per parlare dell'importanza dell'attività fisica nelle persone che hanno ricevuto un trapianto. La buona novella. E in linea con noi abbiamo il professor Alessandro Nanni Costa, che è direttore del Centro Nazionale Trapianti. Buongiorno professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Professore, i dati lo dimostrano, lo sport è un vero e proprio alleato per le persone che hanno subito un trapianto. Ci spiega, dottore, professore, quali sono i reali benefici? Sì. Beh, innanzitutto comincio con una battuta. Noi diciamo subito, ma in realtà chi fa un trapianto comincia una nuova vita. Si certo riprende davvero dalla sua malattia, può fare figli, riprende un'attività lavorativa normale e deve, meglio che lo faccia, riprendere un'attività fisica. Perché? Perché la terapia antirigetto che viene fatta ha delle complicanze per quanto riguarda l'assetto lipidico e diciamo che in generale produce un acceleramento dell'arteriosclerosi significativo, tanto che la prima causa di morte oggi fra i trapiantati di rene è proprio sono le malattie cardiovascolari. Quindi è un problema vero. Come affrontarlo? Utilizzando l'attività fisica come terapia, in uno slogan lo sport come farmaco, ma l'attività fisica come farmaco in più, questo è un principio che vale per diversi campi, diverse patologie, prime fra tutte il diabete, ma vale moltissimo per i trapiantati, che hanno questa arteriosclerosi accelerata proprio per l'effetto dei farmaci che devono cronicamente prendere per evitare il rigetto. Quindi lo sport nel trapiantato non solo aumenta come sempre in queste patologie l'autostima e quindi li fa stare meglio, ma è un vero e proprio presidio terapeutico. Attività fisica, non solo sportiva, ma attività fisica regolare, sì, come farmaco in più. E stiamo conducendo uno studio nella quale la somministrazione di attività fisica da parte dei medici dello sport e in ambienti adatti, cioè in palestre dove si può realmente seguire questo regime, diventa davvero una vera e propria terapia. È qualcosa di innovativo in questo settore. Quindi l'attività fisica come una vera e propria terapia post-trapianto. Dottor Confalonieri, esatto. Voleva intervenire? Sì, ci sono due cose che volevo sottolineare proprio perché abbiamo esperienza, seguiamo diversi trapiantati somministrando loro l'attività fisica. Mi piace molto questo concetto, cioè il soggetto trapiantato ha bisogno di essere allenato con la massima precisione, con la massima attenzione, con i giusti carichi della giusta attività, proprio come se si gestisse un farmaco molto piacevole da un lato, molto potente però dall'altro lato, e quindi da gestire in modo individualizzato e attento. E poi volevo sottolineare un aspetto che secondo me è di rilevanza enorme fra quelli sottolineati dal professore, e cioè che l'attività fisica aiuta il trapiantato a recuperare un rapporto migliore con il proprio corpo. E questo è uno dei grossi problemi. Io ho visto che attraverso lo sport veramente migliora rapidamente il rapporto con la propria corporeità e aiuta il trapiantato a stare meglio, a ritrovare quella self-confidence che poi è fondamentale nella fase post-intervento. Infatti è una nuova vita, come diceva il professor Nanni Costa. Professore, vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci? Sì, stiamo cercando di misurare scientificamente questi progetti, quindi lavorando anche per dimostrare che, ci sono già dei dati molto interessanti, il trapiantato è normale, la sua attività fisica è assolutamente normale, la risposta allo stress muscolare è normale e crediamo che sia importante, e quindi il trapianto come nuova vita, il trapianto come salute, il trapianto come attività sportiva, attività fisica per tutti e attività sportiva per chi riesce attraverso l'attività fisica, ma molti lo possono fare. Questo è il nostro obiettivo. Grazie professor Nanni Costa, buona giornata. Grazie. Buon lavoro. Pronto soccorso. E abbiamo in linea con noi Marco, ci chiama da Verbania. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi ospitato. Grazie a lei. Volevo fare una domanda a Confalonieri, che stimo molto per la sua competenza. Io faccio parecchio sport e vorrei chiedere una cosa. Come posso fare per migliorare le mie prestazioni sportive quando pedalo? Ad esempio, io ho un cardiofrequenzimetro e lavoro a 140 pulsazioni al minuto. A 160 non ce la faccio più, cioè vedo che vado in sopraffiato. Come fare a migliorare le mie prestazioni per resistere a 160 pulsazioni al minuto? Dove andrà in vacanza, Marco? Perché la nostra trasmissione pedalerà? Ho da fare, non ho tempo di andare in vacanza, devo lavorare tutto l'anno. Però pedala, Marco. Però pedala, nuoto, ecco. E alzo i pesi. Ecco. Va bene, allora io direi che in questo caso probabilmente bisogna integrare l'allenamento. L'estate ci consente di farlo, nel senso che attraverso l'estate noi possiamo allenarci più a lungo, allenarci un po' tutti i giorni, cosa che in inverno non è possibile fare, proprio perché la luce dura di più e il clima è più mite. Quindi il mio consiglio per Marco sarebbe articolare il suo programma di allenamento specifico in bicicletta su 4-5 sedute settimanali e non più magari solo sull'uscita del weekend abbinata col nuoto e la palestra in settimana, e nell'arco di queste 4-5 sedute inserire dei lavori ad un'intensità predeterminata, particolarmente allenante per risolvere il suo problema, che può individuare attraverso un semplice test di soglia che può fare presso qualsiasi medico sportivo o istituto di medicina dello sport. Questo è il consiglio legato così alle opportunità che ci offre l'estate. Dottor Respizzi, schiena, ginocchia, caviglie, piedi, questi sono di solito i punti deboli. Rinforzarli conviene, specie se pensiamo di andarli a stimolare. Ma dottor Respizzi, ci sono tra queste zone più a rischio di altre? Sicuramente sì, ci sono zone più esposte a rischio di sovraccarico, sì. Ma io vorrei dare un consiglio generale, Nicoletta, che è questo. I tempi biologici sono indiscutibili, nel senso che per costruire un muscolo ci vuole tempo, sì. Per dimagrire ci vuole tempo. Sperare che tutto questo accada in 15 giorni di vacanza è un'utopia. E quindi cominciamo a dirlo ai pazienti che se uno sa che deve andare a farsi una vacanza che può essere impegnativa dal punto di vista fisico, o perché va a fare un trekking in Himalaya, o piuttosto che la settimana bianca allo Stelvio, eccetera, deve cominciare a pensarci adesso se vuole andare in agosto. Certo, ci può pensare tre giorni prima di è per questo che noi oggi ne parliamo, ecco, ci portiamo allora, avanti. A questo punto, iniziando oggi, con 40-50 giorni di preparazione, anche due volte alla settimana, tre volte alla settimana sarebbe l'ideale, uno arriva in condizioni fisiche medie, ma comunque perlomeno che non mettono a repentaglio le nostre strutture, il nostro apparato locomotore. Quindi io questo darei come consiglio generale, cominciare a pensarci oggi, almeno due mesi prima da quando si è prenotata la vacanza. Allora, perché iniziate... poi si rischia di trovarsi dopo due giorni inchiodati, come si dice, non in gergo scientifico, ma sì, che prende molto bene l'idea. Prende l'idea e uno passa una vacanza del cavolo, che non è massimo. Siamo tornati insieme, oggi ci alleniamo in previsione dell'attività sportiva che praticheremo durante le vacanze, speriamo arrivino. 800 24 0024 è il nostro numero verde, i messaggi 349 238 6666. Io ho però un messaggio prima di andare ad Angelo che voglio leggerle, dottor Confalonieri, è di un ascoltatore, Emilio da Concorrezzo, che ci scrive: oggi ho 46 anni, facendo sempre sport agonistico da 40 anni, d'estate, intesa come periodo di vacanza, storicamente non faccio nulla di particolare, anzi riposo dalle fatiche annuali. È un approccio... Questo è un profilo che noi non abbiamo incluso, esatto, nei nostri, ma... Hanno provveduto, ecco, gli ascoltatori. La spina, ah. E questo è Emilio, che è testimonial delle persone che dicono: è arrivata l'estate, sai cosa ti dico? Me la godo, non faccio nulla. Ed è correttissimo come approccio, perché comunque in qualsiasi programma di allenamento è previsto almeno un mese di stacco che ci consente di compensare tutto ciò che abbiamo fatto come carico durante l'anno. Quindi lui sceglie di farlo d'estate, sceglie d'estate di dedicarsi a se stesso piuttosto che alla famiglia, e fa benissimo anche al suo organismo, perché ripartirà avendo assorbito tutto ciò che ha fatto durante l'anno. Quindi è una strategia condivisibile. Angelo, buongiorno. Eccomi, buongiorno a lei, il dottor Confalonieri, e al suo ospite. Il dottor Respizzi. Ok, io allora ho 43 anni, faccio un lavoraccio che è faccio il fornaio, faccio di notte, sono in piedi, di giorno dormo. Sì. Pratico molto sport d'inverno, vado a correre tre volte a settimana per un'ora circa all'una. Adesso vado quattro volte in bicicletta per una media di 100 km ogni uscita, ma ho sempre la pancia che non vuole scendere. Cioè, perché... io sono 1,82 di altezza per 86 kg, quindi presumo che 20 siano solo in pancia. Angelo, però lei assaggia anche, dica la verità, focaccine, no, pizzette. Io dico che da stamattina adesso ho bevuto una spremuta di pompelmo, mi crede? Da stamattina alle 2, Adesso sono le 11.36, sono in piedi con una spremuta di pompelmo. Poco, è troppo poco, dottor Confalonieri. Allora, qua ci sono due o tre riflessioni, credo, di interesse generale da fare insieme ad Angelo. La prima, Se non perde tessuto grasso è perché comunque l'introduzione di calorie è perlomeno pari a quelle che elimina con la sua vita di tutti i giorni e con lo sport che fa. Quindi per perdere tessuto grasso tutto sommato avrebbe bisogno di mangiare un po' meno piuttosto che di pedalare di più, soprattutto mangiare un po' meglio, magari evitare di stare fino alle 11 di mattina senza mangiare e rifarsi la sera. In secondo luogo, non è un soggetto effettivamente in forte sovrappeso, perché se è 1,82 per 86 kg è quasi sommato, un fusto. Il rapporto è su valori vicino all'ideale. E noi dobbiamo anche accettare il fatto che il nostro tessuto grasso si distribuisce secondo regole genetiche ben determinate, e quindi probabilmente lui potrà anche dimagrire, ma alla fine un po' di grasso sulla pancia ci starà sempre. Deve prenderne atto, anche. Così come le donne magari devono prendere atto di essere magre, ma di avere un po' più di grasso a livello della parte bassa della schiena piuttosto che delle cosce. Siamo fatti così. Dottor Respizzi, lei ha detto bisogna pensarci prima e quindi bisogna allenarsi. Ma se io, tanto che mi alleno, inizio già ad avere qualche dolorino, male al polpaccio, la schiena che la sento pesante, cosa faccio? Faccio finta di niente, stringo i denti e vado avanti? Oppure no, devo reimpostare il mio allenamento? No. Cambio attività sportiva? Allora, il dolore è un indicatore positivo. Noi spesso lo viviamo come qualcosa da eliminare a tutti i costi, ma di fatto è un messaggio che ci manda il nostro corpo e che ci dice: guarda che c'è qualcosa che non va, è la spia rossa che si accende sul cruscotto. E quindi il dolore va vissuto, va interpretato come un indice di che il nostro organismo ci comunica di stare attenti a qualcosa. Allora io darei un consiglio: se dopo aver fatto una camminata in questi giorni di bel tempo eccetera, uno ha dolore ai polpacci e alle cosce, ed è un dolore che camminando si risolve o comunque passa, e hai un dolore proprio tipo profondo dentro nel muscolo, non è nulla di che, è semplicemente un segnale che abbiamo fatto un'attività di cui non eravamo abituati. Non è il caso di prendersi un antinfiammatorio, lo si può sopportare tranquillamente, basta fare un pochino di stretching e questo dolore passa, e soprattutto è benefico, nel senso che è un indice che il nostro organismo sta reagendo a quello che abbiamo fatto. Se invece il dolore non è dentro nel muscolo, ma è nel tendine, ad esempio nel tendine d'Achille, piuttosto che nel ginocchio, nel tendine rotuleo, allora quello è un dolore probabilmente dovuto a un sovraccarico. E allora lì bisogna per forza capire che cos'è successo ed eventualmente prendere dei provvedimenti terapeutici. Quindi io proverei anche a interpretare, per quanto possibile da parte di un paziente che non è un medico, la sorgente del dolore. Un dolore che viene profondamente da un muscolo, che non è un dolore tremendo, che prima non ha visto un'incidenza di un trauma di nessun tipo, di solito è un dolore semplicemente dovuto al fatto che stiamo utilizzando dei muscoli che erano mesi che non utilizzavamo. Che erano un po' addormentati, un risveglio doloroso, è lo sbadiglio del muscolo. Sì, è giusto, ma questo è poi una cosa che è incredibile, il nostro muscolo con questo dolorino ci segnala che sta lavorando, che sta elaborando nuovi mattoncini, cioè quelle parti che costituiscono i muscoli, i sarcomeri, e che ne sta mettendo su degli altri, sta tirando su una casa diversa, è incredibile, è una macchina fantastica il nostro muscolo, si autocostruisce, meglio di così. Roberto da Crema, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Io volevo dire, no? Sì. Dato che tutto l'anno seduto sul camion, adesso volevo andare in ferie, no? Però volevo sfruttare questi 10 giorni anche un po' per fare dell'attività, perché c'è sempre la schiena, ho già fatto tutte le radiografie, tutto quello che può essere, è una schiena di 51 anni che non ha niente di preoccupante, cioè è quello che ha una persona di 51 anni che ha sempre lavorato, prima faceva il contadino e tutto. Vorrei sapere cosa posso fare in questi 10 giorni che mi possa sollevare un po' magari per tutto l'anno per il dolore della schiena. Grazie Roberto. Dottor Respizzi. Io direi che dire è normale una schiena di 51 anni è già questo un po' paradossale, nel senso buono. Sì. È una schiena che appunto che ha 50 rotti anni e che ha lavorato fisicamente in maniera forte. Quindi io mi immagino di vedere una schiena che ha delle note artrosiche, dei segnali di degenerazione dei dischi intervertebrali, e quindi una schiena che è vero che è compatibile con l'età del signore, ma è vero che è una schiena che ha lavorato per tanti anni e che quindi qualche difetto meccanico, ahimè, ce l'ha. le ha sviluppate nel tempo. Come diceva prima anche Confaronieri, siamo fatti così, progressivamente ci usuriamo un po'. Allora io direi che i consigli da dare al signore sono quelli di cominciare a fare dell'attività blanda sulla schiena. Io consiglierei il nuoto, ad esempio, andare a nuotare 2 o 3 volte alla settimana, che è un'attività in galleggiamento, che non dà problemi di sovraccarico alla colonna e che comincia a sviluppare un po' la capacità di controllare i muscoli dell'addome e i muscoli lombari e i muscoli dorsali. Questa è la cosa più semplice e che lo espone meno a rischi di andare incontro a un sovraccarico. Dottor Confalonieri, stiamo parlando di allenamento, lo facciamo naturalmente con rispettando i tempi, rispettando anche il nostro fisico, ma lo sport esagerato potrebbe rappresentare un rischio anche per il nostro cuore, per i nostri polmoni. Per questo noi raccomandiamo, voi medici raccomandate sempre di praticare attività sportiva, ma con il passo giusto. Ci spiega quali rischi si possono correre, dottor Confalonieri? Ma direi che le attività più a rischio in questo caso sono le attività di squadra o le attività di competizione, perché indubbiamente se ci mettiamo a fare una partita di calcetto, una partita di tennis, nasce lo spirito agonistico, ci confrontiamo con quell'altro, ascoltiamo poco il nostro corpo, inoltre gli sforzi sono sforzi rapidi, intensi, non continuativi, non graduali, e sono gli sforzi più a rischio per il nostro sistema e per il nostro apparato cardiovascolare. Quindi soprattutto se abbiamo l'idea in vacanza di fare questo tipo di attività, sarebbe utile un controllo prima dal nostro medico, anche un elettrocardiogramma, magari un elettrocardiogramma sotto sforzo per andare via tranquilli. Viceversa sullo sport individuale, la camminata, l'uscita in bicicletta, la nuotata, la remata, lì possiamo gestirci meglio perché siamo noi da soli con noi stessi. Se facciamo qualcosa di progressivamente crescente, sicuramente abbiamo meno problemi. Antonella, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, bentrovata. Siamo qua, ci racconti, Antonella. Allora, io volevo sottoporre al dottore il caso di mio marito. Pratichiamo da un po' di tempo, da settembre, il ballo sportivo, liscio e balli da sala. Scusi Antonella, come ha fatto a convincerlo? Poi le lascio parlare col dottor Respizzi e il dottor Confaronieri. L'ho minacciato dicendo che ci sono vedovi e single e quindi avrei preso un partner a caso. Brava, questa io non l'avevo provata, adesso ce la segniamo, segniamocela tutte perché questa magari funziona. Bene, e allora con soddisfazione ballate. E cosa succede? Poi da 15 giorni ha avuto dei dolori, ha accusato dei dolori alle ginocchia. Senta Antonella, questa non lo so, suo marito, dottor Respizzi, secondo lei può essere o è una scusa per scappare? Dunque, io conoscendo i miei polli non ci crederei, però sicuramente il marito di Antonella è una persona seria. La signora ha messo in evidenza quanto siete diaboliche, che mi sembra sempre una cosa che conforta noi maschietti. Sì, poi vi affascina. Assolutamente, certo. Totalmente. No, io direi che, adesso speriamo che non sia davvero niente, ma è possibile che in queste attività che prevedono movimenti rotatori spesso e che quindi sottopongono il ginocchio proprio a un movimento non soltanto di carico ma anche in rotazione continua, un ginocchio che non è abituato a fare questo tipo di attività, si possono creare ancora una volta i già citati sovraccarichi, in particolare a livello dei menischi e delle cartilagini. Per cui lei è il cugino del marito di Antonella, dica la verità, perché voglio dire cosa può... Io consiglierei di andare a fare altre attività un po' più ludiche piuttosto che questo, magari se la signora minaccia perché lì trova dei single, anche lui potrebbe trovare delle single, non è per dire, ma si occupano d'altro. Quindi io direi che comunque una visita delle due ginocchia si impone, perché non si può sottovalutare il fatto che questo signore possa avere un sovraccarico meniscale o delle cartilagini del ginocchio, che è una cosa ancora una volta non grave, ma che può dare fastidio e quindi impedire la pratica. E quindi anche questo è da studiare un attimino, non lo prenderei sotto gamba, insomma. Ecco, proprio sotto gamba. Antonella, quindi lo porti dal medico e lui le dirà la verità. No, ma artrosi, hanno diagnosticato artrosi. Quindi con l'artrosi si balla, dottor Respizzi? Gli faccia fare scopadassi e altre cose, ma ballare è difficile. Lo mettiamo seduto. Andiamo ad Antonio, che ci chiama da Latina. Buongiorno Antonio. Buongiorno, mi sentite? Noi la sentiamo bene. Ah, benissimo, senta, io sono uno sportivo, io gioco a ping pong, sì, chiamato tennis tavolo, sì, ed era un mese che ero fermo, non facevo più attività sportiva. Proprio l'altro ieri ho ricominciato ad allenarmi perché verso il 15 giugno ci sono i campionati italiani di ping pong. E la cosa strana è il ping pong è uno sport dove cioè, è richiesto parecchi scatti laterali e torsioni, sì, a parte il fatto la pesantezza nelle gambe, e poi una cosa particolare è un dolore alla spalla sinistra, pur essendo io destro. Mi domando, una torsione può creare questo problema? Dottor Respizzi? Difficile dirlo. Direi sì e no. No, mi sembra che sia una situazione, è vero che è uno sport asimmetrico, però di solito non ci sono queste indicazioni così precise sulla asimmetria anche della patologia, quindi avrei dei dubbi, bisognerebbe approfondire un po' il tema. Dottor Confalonieri, vogliamo tornare un attimo sui bambini, perché molte mamme li iscrivono all'oratorio, a questi corsi dove lei giustamente diceva la giornata è proprio organizzata intorno e ruota intorno all'attività sportiva. Molte mamme si dicono ma non sarà troppo, è così piccolo, è magretto, fa caldo, si stancherà. Dottore? Ma la mia prima risposta è no, non sarà troppo, siate felici di accogliere i vostri bambini stravolti e entusiasti alla fine della giornata, magari alle 7, 7 e mezza vanno a dormire, cosa che d'inverno non succede mai, perché riscoprono qualcosa che avrebbero bisogno di fare molto di più anche durante l'anno, quindi non mi spaventerai. Se anche fanno le 2 ore di attività al mattino, le 2 o 3 ore al pomeriggio, sanno dosarsi da soli più delle volte. Ecco, attenzione, se per caso il bambino è veramente distrutto, magari compare un po' di febbre o così, allora vuol dire che anche in concomitanza col clima magari hanno esagerato. Ma la tendenza è approfittate del fatto che almeno d'estate possono riscoprire il loro corpo e l'attività fisica e lasciategliela fare veramente in libertà. Oscar ci chiama dalla Spezia. Buongiorno Oscar. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Oscar. Al dottor Confalonieri è andato di traverso. Ci racconti? Allora, io e la mia fidanzata andremo a fine agosto, inizio di settembre a fare il pellegrinaggio di Santiago di Compostela e faremo in 10 giorni circa 280 chilometri. Sì. Non siamo molto abituati a camminare tanto a piedi così. Come potremmo arrivare a questo lungo percorso, a questa lunga camminata? Che è impegnativa. In forma, sì. Esatto. Dottor Confalonieri. Beh, è un progetto abbastanza audace, tutto sommato. Se non sono allenati, io consiglierei magari 3-4 volte a settimana di camminare già adesso, camminare anche con passo relativamente rapido, inizialmente 45 minuti, un'ora, poi progressivamente un po' di più. 2 volte a settimana scaricare con una bella nuotata, quindi proprio per fare qualcosa che migliori la nostra resistenza ma che non sovraccarichi l'organismo, e magari il sabato e la domenica prendere la mountain bike o la bici da strada, più semplice con la mountain bike, e fare delle uscite molto lunghe, ecco, anche 1 ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza, cioè abituarsi allo sforzo prolungato però fatto con un mezzo che sovraccarica meno rispetto al cammino o alla corsa. Unire queste tipologie di allenamento consente di variare, di non annoiarsi, di arrivare probabilmente abbastanza preparati per questo pellegrinaggio. Poi ci si affida un po' anche a chi ci guarda dall'alto arrivando a Santiago de Compostela, perché è dura, sono 30 chilometri al giorno, è un impegno notevole. Oscar, ci faccia sapere. Buona giornata. Va bene, vi ringrazio. Io direi, se siete d'accordo, di chiudere in dolcezza. Il dottor Confalonieri dice sempre che bisogna gratificarsi, no? In linea con noi abbiamo Marco Bianchi, ricercatore ed esperto di comunicazione didattica scientifica all'Istituto della Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano di Oncologia Molecolare, autore dei Magnifici 20. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Marco, anche gli sportivi amano i dolci, anche loro però devono tenere d'occhio il contenuto di grassi. I dolci ideali, come mi confermerà il nostro dottor Confalonieri, amante e sostenitore della crostatina, devono essere leggeri, digeribili e nutrienti. Sono tre aggettivi che spesso non è facile conciliare. Forse tra i 20 alimenti amici, tra i magnifici 20, qualcuno riusciamo a recuperare, a miscelare ad arte e a creare qualcosa di buono, ma che ci dia lo sprint è assolutamente digeribile. Assolutamente, guarda, Nicoletta, sicuramente uniamo la farina di soia, la farina di mandorle e della semplice uvetta ammorbidita, otterremo dei biscotti fantastici, energetici, ma dal punto di vista salutare veramente elevato. Basta veramente unire 100 grammi di farina di mandorle, farina zero, farina di soia, 150 grammi di sesamo e 50 grammi di uvetta ammorbidita. Sì. Li impastiamo tutti insieme con 200 grammi di acqua tiepida e poi facciamo delle piccole palline che disporremo sulla placca del forno e cuoceremo a 180 gradi per circa 30 minuti. Otterremo dei buoni biscottini croccanti ma morbidi al loro interno e ovviamente con il contenuto di mandorle che ovviamente sappiamo essere veramente spettacolare dal punto di vista nutritivo perché ricche di potassio, magnesio, calcio, fosforo e ferro e vincono proprio per il fosforo nel loro record assoluto, insomma. E quindi sono dei dolcetti che fanno bene anche agli sportivi, anche ai bambini. E cavolo, assolutamente. Vede, dottor Confalonieri ci proverà? Non è male, non è male, adesso poi è molto semplice da fare, quindi vorrei biscottino provarci. Batte crostatina? Sì, e poi io in questo periodo per esempio consiglio moltissimo il gelato fatto in un certo modo, fatto con certe caratteristiche, un alimento completo con potenzialità enorme, ma magari ne parleremo la prossima settimana una puntata tutta dedicata alla dieta. Dottor Respizzi, vuole aggiungere una ricettina anche a lei, un consiglio per chiudere in dolcezza? Una ricetta molto facile che è quella dei 10.000 passi. Quando sei in vacanza sì. Non si ha un tubo da fare sostanzialmente, no? Bisogna tirare sera, come si dice, o comunque insomma si è rilassati, si può scegliere. 10.000 passi, che sono circa 5 chilometri, è una cosa che fa bene e non fa male e che è facile da praticare. Significa magari essere al mare, andare a comprarsi il giornale al mattino invece che l'edicola vicino, ma l'edicola più lontana. E quindi è una cosa che aiuta molto perché non sovraccarica, stimola comunque un pochino l'apparato locomotore e soprattutto psicologicamente dà un indirizzo anche per quando c'è il rientro in città. È un modo diverso, più slow, diciamo, come si adesso che si dice questa parola che è sempre di moda, di affrontare la giornata fin dall'inizio. Quindi 10.000 passi. 10.000 passi con due biscottini suggeriti da Marco Bianchi, no? Ce li mettiamo in tasca. A 10.000 passi più sì, là, oppure farli e poi tornare a casa e sfornarli. Esatto. Insomma, fate come volete. Intanto grazie per essere stati con noi al dottor Stefano Respizzi, grazie. A Marco Bianchi, al dottor Confalonieri, che torna il prossimo venerdì, puntatona sulla dieta, preparatevi. Intanto io vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani a Questa casa non è un albergo. Buona giornata da Nicoletta Carbone.